America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. I look at the White House as a Shakespearean court and power and movements. Maureen Dowd, grande columnista, grande editorialista del New York Times, e per una volta sentite anche la sua voce, e non leggete soltanto di lei o di quello che scrive. E vi ho fatto sentire Maureen Dowd perché questa grande giornalista americana, devo dire, è veramente una delle più simpatiche, brave columnist, quindi editorialista, racconta sempre delle storie molto interessanti che danno, come dire, l'idea, il polso di dove si sta muovendo l'America, sia da un punto di vista sociologico e di costume che da un punto di vista politico, perché poi è perfida nelle sue osservazioni, sia che si parli di Barack Obama, di Bush o di Clinton, insomma lei non guarda in faccia a nessuno. Eppure si è trovata al centro di una grossa polemica che ha coinvolto americani su Twitter, su internet, su live blog, eccetera, che ha a che fare con l'uso della marijuana. Una polemica, devo dire, che inizia a gennaio. Anzi, io, siccome la conosco, Maureen Dowd, ci conosciamo da tempo, mi ricordo che allora la chiamai all'inizio di gennaio e disse: ma senti, Maureen, perché non, se sei passaggio a New York, andiamo a fare una certa cosa insieme? Lei mi risponde: no, dice, non ci sono, sono a Denver, ed era pieno inverno. Questa email che mi mandò era del 21 gennaio del 2014, ce l'ho qui davanti. Tra l'altro mi dice: sono a Denver anche con un'altra persona, sempre giornalista del New York Times, che è la critica televisiva del New York Times, che si chiama Alessandra Stanley. E dico: ma io sono un po' puzzled, cioè sono un po' perplesso. E allora lei mi dice: ma perché sei puzzled? E dico: ma dico, perché non riesco a capire come mai voi due e che cosa state per combinare in gennaio a Denver. E lei mi risponde: Rocky Mountain High. Ecco, come possiamo tradurre questo high? Diciamo, high è quando uno è un po' fatto. Rocky Mountain High, dico, ma chissà cosa mi vuol dire. Poi ho scoperto che era andata appunto lì per fare queste sue ricerche sulla droga, sulla vendita della marijuana, che in Colorado è legale. Da allora in avanti poi non è successo nulla. Fino a quando, una decina di giorni fa, scrive un articolo sul New York Times e questo articolo diventa esplosivo. Ne parlano tutti. Per esempio, sentiamo questa giornalista che legge quello che ha scritto Maureen Dowd. She wrote, I barely made it from the desk to the bed where I lay curled up in a hallucinatory state for the next 8 hours. Cosa scrive Maureen Dowd? Dice: per circa un'ora non è successo nulla, dopo aver preso una certa dose di droga in un biscotto di cioccolato che aveva dentro la marijuana. Legalissimo, è andata a comprarlo in un negozio, quindi tutto normale. E quindi dice: per circa un'ora non è successo nulla. Poi ho sentito un fremito di paura attraversarmi il corpo e il cervello. Ho raggiunto faticosamente il letto, dove sono rimasta in uno stato di allucinazione per le successive 8 ore. Avevo sete, ma non potevo muovermi per prendere l'acqua. Ero ansimante, paranoica, certa che se il cameriere avesse bussato e io non avessi risposto, avrebbe chiamato la polizia. Faticavo a ricordare dov'ero e addirittura cosa avevo addosso. E mentre la mia paranoia cresceva, sono arrivata addirittura al punto di convincermi che ero morta e nessuno me lo aveva detto. Ecco, voi immaginate l'impatto di questa cosa, perché chiaramente Maureen Dowd è un po' un'icona. È stata attaccata da coloro che difendono la libertà dell'uso della marijuana. E qui io vi parlo di questo perché, come sapete, in America ci sono sempre una serie di trend, di tendenze che cominciano e poi arrivano anche da noi in Europa. E dunque, in America l'uso della marijuana prima era stato legalizzato per questioni mediche. Adesso in due stati, nel Colorado e nel Washington State, è stato invece legalizzato to cure. Si possono avere delle dosi personali, tra virgolette, e basta che tu sei maggiorenne, che hai più di 21 anni, puoi usarla. Puoi usarla normalmente, è stata equiparata in sostanza all'alcol. Every successful business has an origin. Ben went to Berkeley and double majored in business and botany. This is the best cannabis in the world. Savage, film di Oliver Stone, che tratta proprio la questione della droga. Devo dire, come sempre, Stone è avanti rispetto ai tempi. La storia qual è? Beh, ci sono due ragazzi per bene che hanno la loro coltivazione di marijuana in California di ottima qualità e si creano questo loro mercato, ma loro non sono dei veri trafficanti di droga, come dire, sono degli agricoltori, fino a che non si scontrano con i mafiosi, con quelli che controllano il racket della droga, che sono preoccupati da questa coltivazione di questa alta qualità e vogliono in qualche modo fermarli. Ecco, in questo film c'è la sintesi di quello che sta capitando adesso, perché l'emendamento 64 in Colorado è stato votato dagli elettori proprio per legalizzare il 6 novembre 2012 l'uso della droga e della marijuana, dicendo nel momento in cui la legalizziamo si elimina il rischio di criminalità organizzata e tutta una serie di problemi che ruotano attorno a quello che è considerato traffico di droga magari più pesante, ma la marijuana non lo è una droga più leggera. Ecco, in Colorado a questo punto sono nati proprio adesso dei negozi dove si va, si comprano dei biscotti di droga tipo quello che ha comprato Maureen Dowd, oppure semplicemente dell'erba che si fuma. E a questo punto è nato un business importante, perché poi lo Stato su questo business incassa delle tasse, i trafficanti di droga ovviamente guadagnano di meno perché tutto è legale, e devo dire è nata un'intera generazione che stanno facendo grande business nella droga, nell'erba e in being high in the Rocky Mountains. Being high, io vi dicevo, essere fatti, in americano high vuol dire essere alto, diciamo essere un po' sopra, Rocky Mountain sono altissime, e quindi Maureen Dowd ha chiuso poi, ritornando nella cronaca domenica scorsa, con un altro articolo in cui dice, il primo era contro l'uso della droga, questo lo dico a favore, sì, insomma, che venga usata, ma che ci siano delle indicazioni, delle specifiche, di modo che nessuno possa correre il rischio che ho corso io. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato di high, di quest'uso della marijuana, di Figli dei Fiori, quindi mi sembrava opportuno ricordare un grande spettacolo a Broadway che fu all'avanguardia del movimento hippie, Hair, e quindi questa grandissima canzone The Age of Aquarius, che comincia When the moon is on the seven high, quindi quando la luna è alla settima altezza, quindi questa questione di essere high e altezza ritorna. Ecco, Maureen Dowd non aveva capito che di quel biscotto forse era meglio prenderne soltanto un bocconcino, se l'è mangiato tutto ed è successo quello che è successo. The Hair, The Age of Aquarius. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!